Zeman secondo me è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo. Finale in Australia, vittoria Roland Garros, quarti a Wimbledon e qui una vittoria, cioè un anno incredibile. E abbiamo apprezzato subito cose diverse di questo uomo, che è una persona che aveva lavorato anche alla Caritas. Tutti convocati di Carlo Genta. E Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, e il brutto anatroccolo che nella notte italiana è diventato cigno, Andy Murray vince finalmente il suo primo slam. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I just... History is made at the US Open. I should have known she would win in the end. I'm a loser. Non a caso ex loser, non a caso la canzone dei Beatles, Fab Four, adesso sono davvero quattro i fantastici quattro del tennis, Nadal, Federer, Djokovic e appunto Murray, che vince sto slam, si leva la scimmia dalla spalla e si arrampica al numero 3. Ne parleremo più tardi con la voce più amata del tennis italiano. Ma poi c'è anche un PM, quello di Genova, che dice che il derby della Lanterna del maggio 2011 fu pulito come un giglio. C'è un nuovo Moser che torna ai mondiali di ciclismo 25 anni dopo. E stasera c'è la nazionale al facile esame maltese, ma una nazionale un po' confusa, mi pare, nelle rotazioni, negli uomini, forse anche, dice qualcuno, nella testa del CT. Allora, primo ospite, uno dei miei preferiti, uno che in nazionale ha giocato tantissimo, il pupillo di Berzotti, Evaristo Beccalossi. Buongiorno, ciao. Era ironica. Ti sei fermato a livello giovanile, dai. Mi sono fermato a livello giovanile, mio caro Beck. Senti, sì. Ma non so se hai sentito, ti è simpatico Zeman? Eccezionale, poi anche... No, ma mi è simpatico, mi è... Anche perché è sempre stato coerente, giusto o sbagliato che sia, nel suo percorso calcistico e nel suo credo calcistico soprattutto, perché tutti che dicevamo che era bravo in fase offensiva e se avesse avuto così un po' la testa per fare certi accorgimenti difensivi, era già ad alti livelli da parecchi anni. Invece sì, lui è sempre stato coerente, sì, e su questo, giusto o sbagliato che sia, bisogna fare i complimenti. 800 24 00 24, i nostri ascoltatori come ogni giorno convocati qui. Però non so se hai sentito ieri che cosa ha detto il tuo amico Gianluca Vialli da questo microfono, sì, da questa frequenza. Ho letto qualcosa di sfuggita. Hai letto qualcosa di sfuggita? Perché ha fatto un po' di rumore. Quando parlano bene è facile anche dire che sono bravi, invece bisogna sapere accettare quando c'è anche qualcosa di negativo, se no siamo tutti belli, bravi, scolaretti, certo, mano nella mano. Bravissimo. È bravissimo, infatti lui te lo faccio riascoltare cosa ha detto. Zeman secondo me è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo. P apostrofo araculo? P apostrofo araculo, esatto. Senti, ma Prandelli, secondo te sta sbagliando qualcosa? Perché mi sembra in calo la fiducia non solo nell'economia italiana, nell'economia mondiale, ma anche nei mercati, anche oggi mi pare. Ma mi pare in calo anche la fiducia in Prandelli. Questo non lo so, non ho idea. Io posso solo dirti che con un certo tipo di squadra è riuscito a portarci in finale negli europei e secondo me è andato oltre le aspettative, perché basta pensare che i due punti di forza erano Cassano, che ha avuto un problema fisico, è stato fuori per parecchi mesi, Balotelli per altri tipi di problemi, giocava non giocava nel City, e ci hanno permesso di arrivare nella finale degli europei. Credo che abbia fatto bene il suo lavoro, sono altrettanto fiducioso perché è una persona preparata e equilibrata. Alle mode non corro dietro, probabilmente adesso va di moda già pensare dopo Prandelli, dopo i mondiali, però credo che sappia il fatto suo e io ho fiducia. fiducia, non ho nessun tipo di problema, perché alla fine sicuramente cercherà di mettere in campo una squadra competitiva. Poi non mi sembra un P apostrofo a culo. No, assolutamente, no. Anzi, abbastanza, anche se si è evoluto molto, perché magari prima gli piaceva solo un credo calcistico, invece a seconda dei giocatori che ha a disposizione cerca anche di modificare, e quando tu modifichi anche qualcosa è chiaro che va incontro anche a delle prestazioni non buone. Ho un sacco di saluti per te via Twitter, via SMS, anche un ascoltatore che ti chiede che ti vorrebbe chiedere una cosa: se pensi che il vero vice Mirito dell'Inter sia Cassano per qualità tecnica e movimenti. No, Palacio. Palacio? Palacio con un altro tipo di gioco, l'abbiamo dimostrato in Coppa la penultima gara, quando tolse Mirito da prima punta, spostò Palacio, Schneider palla nel corridoio in profondità e in diagonale Palacio fece gol. Comunque sai cosa la prima sono cosa? Preparato o no? Oh, sei preparatissimo. Ma sai qual è la prima cosa che ho pensato quando Cassano ha saltato il fosso, il Naviglio? Ho detto, è l'erede naturale di Evaristo. Ma no, ma lui, io sono di parte, perché con Antonio insomma è 4-5 anni che avevo contatti e ha sempre desiderato venire da noi. Sì, eh? Poi il percorso, sì, assolutamente. Anzi, sarebbe bello poter dire un giorno una battuta, però insomma scusate, si può chiudere, scusate il ritardo, però è 4-5 anni che lui insomma voleva venire all'Inter, c'è andato vicino parecchie volte e sono contento che sia arrivato adesso, anche perché ha una grande possibilità di chiudere in bellezza senza avere più lo stress di dover dimostrare e di dover diventare protagonista a tutti i costi. Insomma, c'ha 30 anni, ha tutte le possibilità per far bene. Senti, ti saluto con questo messaggio di Luca su Twitter: un grande saluto al Becca, che anche con quel fisicaccio che si ritrova penso abbia i piedi più intelligenti di molti campioni. Porco carico, tu non dice, cioè, fisicaccio, sì, fisicaccio vabbè, è costato all'età, i piedi non lo so, perché ho provato a fare qualche partitina, ma ormai anche i piedi mi sa che stanno andando. No, quelli non vanno mai, caro Beck, corri un po' di più, ma non lo facevi perché, neanche da giocatore. Sai perché il problema è che di solito vado in giro senza niente, mi prestano anche le scarpe, invece mi diverto con le mie vecchie scarpe dal disegno, con quelle qualche colpetto riesco a farlo. Beh, è sempre un piacere, grazie. Ciao, grazie, buon lavoro, buona grazie, giornata. Ciao, grazie a Evaristo Beccalossi. Vi ricordo, cari amici, che siete convocati per parlare di sport, dello sport che preferite. Noi oggi parliamo di tennis, di calcio, di ciclismo, parliamo di pubblici ministeri. No, questo non è sport, scusate. Però una notizia di oggi: richiesta di archiviazione del pubblico ministero di Genova Biagio Mazzeo per gli ex genoani Criscito, Milanetto, Dainelli e Palacio, indagati per ipotesi di frode sportiva nell'ambito dell'indagine sulla presunta combina per il derby Genoa-Sampdoria dell'8 maggio 2011. Analoga richiesta è stata formulata anche per il capo ultra genoano Massimo Leopizzi, accusato di favoreggiamento in relazione ad una dichiarazione su una vicenda già prescritta, quella relativa alla combin di Genoa-Venezia del 2005. E cosa ci volete fare? Il calcio è questo qua. Il calcio è questo qua. C'è Conte che, insomma, ieri ho ascoltato 4 ore dai pubblici ministeri di Bari in relazione a 2 partite di quando era allenatore del Bari. Evidentemente le prime squadre non le ha scelte benissimo. Il Bari, il Siena e queste vicende lo hanno seguito, lui ha seguito queste vicende. Però insomma mi sembra una storia pericolosa, di nuovo pericolosa, perché rischia un aggravio della pena. Antonio Conte, allenatore della Juventus. 800 24 00 24. A proposito di queste storiacce, c'è, come sapete, Farina, che è quello che abbiamo beatificato, che il mondo del calcio, non noi, che il mondo del calcio ha beatificato, è stato portato in nazionale a titolo dimostrativo, è salito sul palco del Pallone d'Oro, insomma è diventato una specie di santo dei noantri, di immagine della pulizia, dopo aver fatto un gesto assolutamente bellissimo, ma anche un gesto che dovrebbe essere normale in un mondo normale, però ovviamente questo mondo normale non è rimasto senza contratto. lo saprete, quindi non gioca più nel Gubbio, non va a fare l'allenatore del settore giovanile del West Ham, insomma Farina non lo vuole più. Ne ha parlato nei giorni scorsi, sempre a questi microfoni, Tommasi Damiano, ovviamente presidente dell'Assocalciatori. Sono abbastanza amareggiato e molto sorpreso. Simone Farina da maggio scorso è anche nel consiglio direttivo dell'Associazione dei Calciatori, è stato un nostro piccolo gesto concreto, seguito le parole, dobbiamo stargli vicino, purtroppo non è stato così per quanto riguarda la sua professione, non c'è stata questa offerta, non c'è stata nei momenti giusti, nei tempi giusti, perché il minimo sarebbe che arrivasse adesso o a gennaio, però sicuramente credo che non sia un bel segnale. Secondo qualcuno sono ridicolo perché sono solo capace di fare battutine su Conte, no, mi riescono bene anche quelle su altri certe volte, ma non faccio battutine, mi limito a leggere i giornali. Poi cosa abbiamo anche Prandelli che ha parlato di Simone Farina nei giorni scorsi. Allora, il CT. È un compito nostro cercare di far capire che è un personaggio positivo sotto tanti punti di vista e quindi non abbandonarlo. Ringrazio della domanda e speriamo che fra un mese, quando ci ritroveremo, di parlare di un contratto nuovo per lui che se lo merita. Così Prandelli su Simone Farina. Molti messaggi, 349-238-6666, a parte quello che vi ho letto prima. C'è chi vorrebbe riascoltare e sentire la voce di Puliciclone, Paolo Pulici. Un giorno convocheremo anche lui, ma siete convocati tutti voi. 800-24-00-24, se no mi annoio se non sento le vostre voci, se non rispondete alla convocazione, come ha fatto Alessandro da Bologna. Berzotto aveva sempre ragione, scrive Gianmarco da Firenze, a proposito delle mancate convocazioni invece di Evaristo Beccalossi. Alessandro. Sì, salve gente, grazie. Salve, ben trovato. Grazie. Solo una piccola precisazione, perché lei ha detto che legge i giornali sulla vicenda di Conte. Allora, leggendoli bene, si deduce che per ora Conte è stato ascoltato solo come persona informata. Adesso dire che rischia un aggravamento, eccetera, eccetera, al momento forse è un po' prematuro, anche perché poi si è visto che anche gente che sembrava condannata all'ergastolo calcistico, Criscito e gli altri, già indagati, eccetera, sono stati assolti. Quindi uno che per il momento è solo persona informata dei fatti, testimone. Lei dice che sono andato oltre. No, per adesso sì, poi non si sa, tutto può appunto, essere, però siccome era il tono così rischiare se fosse confermato, l'allenatore rischia l'omessa denuncia. No, ma per adesso non è neanche indagato, quindi sto leggendo, evidentemente come me hanno forzato molti colleghi, io sto leggendo, ma perché ce l'ho sotto gli occhi, quindi in maniera abbastanza casuale, quello che hanno scritto Foschini e Mensurati su Repubblica. Nell'occhiello l'allenatore rischia l'omessa denuncia, per un match sarebbero stati pagati 200.000 euro. È chiaro che non c'è nulla di comprovato, ma mi sembra ci sia poco di comprovato in tutta questa storia, perché poi nel processo sportivo, come sappiamo, si va sulla credibilità o attendibilità di questo o quell'altro, quindi mi limito ai fatti. È stato ascoltato su queste due partite. A proposito di battutine, mi sono limitato ad osservare che è stato sfortunato quantomeno nella scelta delle squadre, prima il Bari coinvolto e poi il Siena, per cui invece la condanna è arrivata. Se non me la passate, peggio per voi, non so cosa dirvi. Anche questa è cronaca, mi pare. Giame, Bologna, Verona. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso di Conte. Sì. Io direi che già l'arroganza che ha avuto della conferenza stampa dopo la sentenza è stata vergognosa, quando prima sembrava un agnellino appunto per farsi commiserare. Se ha commesso i fatti deve pagare, ed è fortunato, perché le leggi italiane non sono per me giuste, perché un allenatore, parlo di Juventus, Verona, Napoli, Palermo, che che è squalificato non dovrebbe neanche entrare in nessuno stadio d'Italia, sì, ma stadio e neanche allenare la squadra. Sono d'accordo, però se le norme sono queste, o cambiamo le norme o non è che si può fare altro. Ecco. No, mi sbaglio? Sì, no, è giusto, è giusto. Io ho perché? Detto, difatti, le regole sono queste, però per me sono sbagliate. Sì, sono sbagliate. Se deve pagare per altre cose, come ho visto che Bellavista dovrebbe sfornare ancora cose, chi ha sbagliato deve pagare. Conte, Conte mi sembra che lo stia facendo. Comunque. Sì, però... Se poi le norme sono stati anche leggeri, ma e se questo poi delle altre cose aggiungeranno, penso. Questo non so se siano stati leggeri, perché insomma la squalifica mi è sembrata abbastanza severa, no? 10 mesi. Se poi parliamo della norma che sta a monte, che consente all'allenatore di allenare la squadra, di fare la formazione, di mettersi dietro quel vetro fumé e di dirigere la squadra da lì non so in che maniera, allora questa è un'altra storia. Quanto alla squalifica, è arrivata, non mi sembra una squalifica leggerissima. Non so cosa stia dicendo, cosa abbia da dire Bellavista sinceramente, però questo sviluppo di Bari, io fossi un tifoso juventino sarei vagamente preoccupato, perché sì, Conte pure all'Atalanta, è vero, è stato, a proposito di scommesse, di doni eccetera, è stato anche all'Atalanta, sfortunata evidentemente nella scelta delle squadre. Antonio, Verona. Buongiorno. Quello di cui volevo parlare con lei era allargare un attimino questo tema e a Conte portarlo poi a quello che una volta Bettega chiamava lo stile Juve, per anni e anni e anni, squadra vincente sotto tutti gli aspetti, dalla forza della famiglia Agnelli a tutto il resto, però per tutta una serie di coincidenze lo stile Juve ce lo troviamo sempre, con Bettega, Girardo e Moggi poi condannati, chi in parte e chi in meno, con il dottor Agricola squalificato per tutta una serie di motivazioni, e poi Vialli si permette di chiamare anche Zeman Paraci quando con una semplice affermazione comunque ha portato alla luce, ahimè per loro, tutta una serie di cose che non andavano comunque bene nel mondo del calcio. Poi ci ritroviamo con la storia di Conte. Ora, Conte sarà stato pure sfortunato nella scelta delle squadre, ma la Juve la deve smettere di essere così arrogante, mettendosi la scritta 30 e continuando con questa forza, secondo me eccessiva, a blasonare dei titoli che secondo me in parte non ci sono, e guarda caso non ci sono altre società in Italia che possono vantare ironicamente tutta questa serie di insuccessi che loro hanno avuto. Ritorno ad Agricola, ritorno a Conte, ritornare dove vuole, perché il passato lo conosciamo e quindi può ritornare dove vuole. Altri tifosi torneranno su altre vicende, ma perché la storia è questa. Quanto allo stile Juventus non esiste più da anni, quanto alla storia delle tre stelle e degli scudetti pregressi l'avrei finita anch'io, però evidentemente è una sorta di chiamata alle armi ormai del popolo juventino, e quanto al resto basta. Maurizio, Genova. Maurizio, buongiorno. Saluto anch'io. Io volevo fare una domanda sul caso del giocatore Simone Farina. Sì. Il fatto che sia arrivato senza squadra non sarà legato proprio alla vicenda che questo ragazzo è una voce fuori da un coro silenzioso e che nessuno lo vuole tra i piedi? Ma va, davvero? No? L'avete già detto? Ma l'abbiamo già detto, l'abbiamo pensato tutti quanti, più che averlo detto, mi scuso, ma io ero fuori Italia per motivi di lavoro, sono arrivato domenica. Ieri mi sono un po' orientato, ho letto i giornali e questa cosa non l'ho letta. Sì. Mi scuso per la mia banalità, ma volevo sapere... No, ma la sua non è una banalità, è il primo pensiero che viene a chiunque, no? È normale che questo non è una superstar, non è un fuoriclasse, è un terzino di lungo corso, di categorie minori, però pare strano che proprio lui sia rimasto senza squadra quando molti altri invece giocano molto chiacchierati e invece giocano tranquillamente, guadagnano dei bei soldi. Se poi vogliamo fare, vogliamo essere maliziosi e pensar male, secondo me facciamo benissimo in un caso come questo. Davide, Milano. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovato. A lei. Degno erede di Garanzini. Prima cosa, cioè una cosa, volevo forse essere un po' provocatorio, ma magari lei mi può ricordare meglio. Il direttore sportivo o proprio l'allenatore del Gubbio non è il signor Simoni? Sì, dovrebbe essere Gigi Simoni. E perché non è stato appunto riconfermato il contratto a Farina, visto che Simoni si è sempre fatto anche lui, non per mettere ancora Sassolini sulla bilancia, però Simoni è sempre stato riconosciuto da tutti come sì, un grande uomo di sport. Magari glielo chiediamo. L'inizio di questa storia era quella di una risoluzione consensuale del contratto, perché Farina doveva andare ad allenare i ragazzini in Inghilterra nel West Ham. Questa era la prima versione dei fatti, e quindi il Gubbio ha detto va bene, risolviamo il contratto. Poi evidentemente questa possibilità inglese non si è concretizzata ed è rimasto lì per la strada, e certi pensieri maliziosi non possono che venire, anche se c'è poi chi scrive che in Lega Pro ci sono molti giocatori disoccupati eccetera eccetera eccetera. Però insomma, se si tratta di un giocatore che ha fatto le denunce che ha fatto, che si è comportato in una certa maniera, ed è lì per la strada, qualche dubbio anche legittimo, anche perché leggevo che insomma c'erano, quando era ancora sotto contratto con il Gubbio, c'erano degli interessamenti dell'Ascoli, ad esempio, che evidentemente ha cambiato idea e non si è più fatto vivo. Non so se erano voci di mercato queste, chiaramente, quindi ve le vendo come tali. Fatto sta che al momento Simone Farina il contratto non ce l'ha. Dunque, vi leggo adesso la lista dei convocati di oggi ai mondiali di ciclismo di Valkenburg, di Ramata, perché così si dice, a proposito di tutti convocati anche sul ciclismo, 800 24 00 24, numero verde. Bettini ha chiamato Nibali, Paolini, Ulissi, Marcato, Nocentini, Capecchi, Cataldo, Nizzolo, Trentin, Gatto e Moser. Non Francesco, ovviamente, ma Moreno, 25 anni dopo l'ultimo mondiale di Francesco. Ciao Francesco. Sì, buonasera. Troppo facile dire un altro Moser torna ai mondiali. Vediamo, mi pare che abbia una buona condizione, è stato messo in squadra e credo che gli daranno anche delle responsabilità, perché nelle ultime corse che sono state fatte, insomma, è quello che ha dimostrato di avere una condizione migliore, anche le caratteristiche di quel percorso che c'è a Valkenburg, che è un percorso un po' particolare. Sì. C'è questa salita a 1,5 km dall'arrivo. Tu hai corso lì qualche mondiale? Sì, l'ho fatto, mi pare, nel 79, sì. quando Battaglin è caduto, che si sono presi dentro con Turau, e ha vinto Raspero quella volta. Sì, sì. Senti, ma che corridore è tuo nipotino? Beh, è un corridore che ha dimostrato di avere delle caratteristiche, di avere questi scatti brucianti, soprattutto dove ci sono degli strappi, insomma, come lì a Valkenburg c'è questa salita, il Tauberg, che si fa sempre anche nell'Amstel Gold Race, però all'Amstel l'arrivo è in cima alla salita e lì sarebbe già molto meglio per lui. Lì c'è questo 1,5 km da fare in pianura, e poi dipende anche se ci sarà il vento contro, a favore. Ah, poi abbiamo visto che l'altro giorno a Montreal c'è stato un finale così, dove c'erano degli strappi nel finale, lui si è sganciato con altri e poi ha fatto una bella azione, anche se non ha vinto, insomma ha fatto secondo e ha dimostrato di avere la gamba. Adesso vediamo, perché non c'erano tutti i migliori, di vedere quando ci saranno, sì, certo, tutti, perché al mondiale arriveranno tutti quelli del Pro Tour, tutte le squadre più agguerrite, la corsa di un giorno. È un mondiale ed è una corsa strana. Può succedere strana. Di tutto, ecco. Come al Festival di Sanremo. Contador che vince la Vuelta e alza 7 dita. Qualcuno dice ha fatto come la Juventus con i 30 scudetti. Contador ha dimostrato di andare forte, a parte che lui aveva vinto già il giro dopo che era stato fermato, sì, insomma, che è cominciata la procedura contro di lui, che poi è andata la positività e ha fatto la squalifica, ci sono state tolte le corse, però non credo che non ci sia solo Contador, abbiamo visto via la Vuelta Gonzales e Valverde e gli spagnoli, altri 4 corridori che possono vincere il mondiale, a parte Freire, che credo non sia il suo percorso, perché non è un percorso da velocisti come Freire, però è una nazionale, credo, la più preparata, poi escono dalla Vuelta e saranno loro da tenere d'occhio, perché è vero che ci sono questi inglesi che hanno fatto bene le Olimpiadi, però non credo che sia un percorso per loro. No, non vedo Cavendish percorrere Cavendish, tante volte quello strappo. Adesso Contador vuol fare anche la cronometro. Beh, la cronometro, cioè quella squadra adesso, prima di tutto. Sì. No, vuol fare la cronometro squadre, individuale. E poi quella individuale, non so adesso se le farà tutte e due, io non ho visto ancora tutte le notizie, ma se uno punta al mondiale su strada, credo che farla a cronometro, che mi pare sia il mercoledì o il giovedì, non è una grande scelta, insomma. Non è una grande idea. Ci sarà quella squadra, che sono squadre di club che parteciperanno, e mi pare che anche Moreno vuol farla, ma direi che uno che punta al mondiale farebbe meglio non farne una nell'altra, no? Perché chi ha le caratteristiche di essere un cronometrista fa bene puntare, certo, sulla cronometro, magari vincerla è un'altra cosa. Questo è ovvio. Ma farle tutte e due, insomma, mi sembra un po' un'esagerazione. Ascolta, un'ultima cosa, che effetto ti fa Armstrong, che viene spogliato in questo periodo di tutte quelle magliette, di tutti quei tour? Ha dichiarato guerra, l'abbiamo visto. Ha dichiarato guerra adesso, che non conta più niente per i grandi ciclisti. Non si capisce neanche perché tanto se l'avessero fatto quando vinceva posso capire. Esatto. Ma adesso non serve a niente, perché serve solo a dire, vabbè, può darsi che si sia doppato, perché le prove vere non ce le avremo mai, insomma. Sì, non so, pare che abbiano ste provette che analizzano, non lo so, ma c'è da dire che a quei tempi era tutta un'altra cosa, insomma, oggi sono cambiate le cose, se fosse qui non potrebbe fare altro che adeguarsi alle regole che ci sono oggi. Insomma. Beh, certo, e poi è ovvio anche che magari prima veniva protetto perché era Lance Armstrong e valeva qualche soldino anche la sua immagine, adesso non conta più nulla e quindi via tutto. No, non mi pare che, non so, quando si è dato un verdetto e sono stati fatti, perché allora lui potrebbe dire, beh, allora io ho fatto i controlli che hanno fatto tutti gli altri corridori, perché tutti hanno fatto i controlli che ha fatto lui al tour che ha vinto, e allora se sono positivo io potrebbero essere positivi anche gli altri, chi è che, capisci? Sono quelle cose che non, se si vuole dare un esempio, se si vuole fare qualcosa di eclatante, serve forse, ma non so a cosa, ecco. Grazie Francesco, grazie mille e complimenti alla famiglia che dà un altro azzurro al ciclismo italiano. 800 24 00 24, e siete convocati tutti qui come Giovanni da Avellino. Buongiorno. Buongiorno. Così, essere un po' provocatorio, a parte il fatto che mi trovo solidale per quanto riguarda la risposta che ha dato ai tifosi pseudo-juventini, che sembrano sempre toccati da qualcosa, no? Quando si parla della Juventus, sembra che praticamente loro siano i depositari della verità, gli altri che hanno possibilità di poter interpretare le letture, articoli vari e compagnia bella, siano quelli che sbagliano nelle valutazioni. A parte questa precisazione che mi sembrava così, per una solidarietà nei suoi riguardi, cioè che è stato attaccato. Volevo solo fare così una provocazione, ma il signor Conte è un dipendente di una società? Lei cosa dice? Credo di sì, ha un contratto, quindi è un dipendente, come posso esserlo io, come può esserlo lei, come può essere qualsiasi lavoratore che lavora con una qualsiasi società. Dunque? Giusto? Sì, dunque. Quindi nel momento in cui io dipendente, la mia società mi sospende per un motivo valido, io praticamente non percepisco più nessuno stipendio. Ma la Juventus non l'ha sospeso. Infatti, questo è quello che volevo dire. In effetti c'è una procedura legale in atto. dove un giudice o più giudici non possono così essere tutti d'accordo nel poter creare un caso su Conte se non ci sono delle valide motivazioni. Adesso il discorso di il giudice, i giudici non possono licenziare, non possono licenziare però un allenatore. Dico, però hanno condannato, significa sì. Che qualcosina c'è. E beh, la Juventus fa le sue scelte e dice io mi fido di Conte, lo voglio confermare allenatore, non perfetto, vedo quale sia il però, problema. Quello che vorrei io essere così in modo provocatorio è perché la legge italiana consente tutto ciò. Cioè la legge sportiva dovrebbe comunque alla fine prendere una decisione nel dire qualsiasi persona, calciatore, allenatore, direttore sportivo è pari a un qualsiasi lavoratore. Se c'è una sentenza, automaticamente ci dovrebbe essere anche la condanna pecuniaria. Non sono d'accordo perché c'è una. Allora, un giocatore che viene squalificato per 8 giornate dovrebbe essere licenziato per 3 giornate. Cioè, non sono d'accordo, semplicemente c'è una squalifica in atto. Questo è il sistema sportivo che. Spesso sbagliamo nel rapportarlo o nell'equipararlo o non assumere come parametro di riferimento il sistema giuridico civile o del lavoro o penale, eccetera, sono cose molto diverse. Se la Juventus ha un allenatore squalificato 10 mesi, benissimo, quell'allenatore per 10 mesi non può andare in panchina e non ci andrà, starà dietro al vetro. Le norme gli consentono di continuare a fare il suo lavoro sul campo durante la settimana, come consentono peraltro, qualcuno l'ha sottolineato, ai giocatori di continuare ad allenarsi durante la settimana e poi non possono andare in campo. Le norme sono queste, ma non vedo perché la Juventus avrebbe dovuto, se non ci credeva più in Conte e avesse detto sei stato squalificato, sei stato scorretto, non mi piace più la tua immagine, cioè, ci fosse stata una ragione, ma la Juventus è stata con il suo allenatore e Conte rimane allenatore della Juve. Non ci vedo niente di male in questo. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost. History is made at the US Open. E allora, come ho detto prima, una delle due voci più amate del tennis italiano, l'altra è Gianni Clerici, questa è quella di Rino Tommasi. Grazie maestro. Grazie a voi. Ex loser, eh? Calimero è diventato cigno finalmente. Insomma, un bel cigno. L'avevo visto l'altra sera contro Cilic rischiare di finire fuori dopo aver giocato due set da coprirsi gli occhi e ho detto eccolo lì di nuovo il braccino di Murray, e invece è stato bravo a superare quella difficoltà e ad arrivare fino in fondo e a vincere comunque contro Djokovic che comunque ha giocato una signora partita, Rino. Momento felice, poi ha vinto le Olimpiadi a casa sua, che quindi la vittoria che vale ancora di più naturalmente, quindi giocatore che non si è fatto molto amare al di là naturalmente dei tifosi inglesi che lo adorano, quindi qualche atteggiamento magari discutibile, però grande talento. Senti, e delle nostre due ragazze che si sono arrampicate sulla cima del ranking del doppio, cosa mi dici? Beh, il doppio francamente mi emoziona fino a un certo punto. È certo che anche il doppio è meglio vincere che perdere, insomma, questa va da sé. Però l'importante è che invece non solo in doppio ma anche in singolare abbiano fatto dei grossi risultati. Ripeto, il doppio è un po' una forzatura. Io al limite il doppio non lo farei neanche giocare, insomma, però ma anche quello che hanno fatto in singolare è davvero notevole. Insomma, se pensiamo che la Errani è numero 7 in classifica in questo momento, insomma, nessuno lo avrebbe potuto immaginare, non dico 10 anni fa, ma neanche un anno fa. Sì, è una classifica femminile comunque molto mobile, ne parlavamo l'altro giorno, una classifica femminile che non ha una dominatrice vera. Albion, vera. Serena Williams è più che vera, Beh, sì, lei indubbiamente. Poco, ti ammolla un cazzotto, te ne accorgi, Lei è vero, però anche lei è arrivata da una stagione in cui ha avuto problemi fisici, eccetera. Quindi è, poi ovviamente sei in condizione. È stata per mesi e mesi, a un certo punto ha perso una sola partita su 25, ecco, a un certo punto della stagione. Tanto per dire la continuità nei suoi risultati. Dei fantastici quattro, cosa mi dici? Federer inseguiva l'ennesimo titolo degli US Open, non ce l'ha fatta. Djokovic è uno che ne vincerà molti altri di Slam. Nadal è in un momento di infortunio, di riflessione, eccetera, eccetera. È anche in un momento di flessione Nadal, secondo te? Ma io bisogna vedere, ecco, perché non si può darlo in declino, ecco. Tra l'altro lui ha una tale forza agonistica che a mio modo di vedere ne dovrebbe uscire da questo momento non proprio felice. Quindi, e poi ci sono, appunto, come hai detto, questi quattro giocatori si staccano nettamente dagli altri, tant'è vero che al di fuori di questi quattro grandi tornei non ne ha vinti nessuno. Grazie Rino, buon lavoro e grazie a maestro Rino Tommasi. Adesso io continuo a parlare con gli ascoltatori, contavo di parlare con Paolo da Pordenone, che però mi pare sia caduto. 800 24 00 24 numero verde. Allora sapete cosa faccio? Vi faccio sentire, visto che stavamo parlando di queste cose molto divertenti, di Conte, di polemiche, di discussioni, di diatribe, eccetera, il pensiero di Gattuso, che da qualcuno prima è stato richiamato sulla vicenda Conte. Gattuso. Ma è un controsenso, però penso che Conte doveva allenare la squadra, perché anche i suoi giocatori, dove allenava prima del Siena, hanno confermato che non era assolutamente vero, hanno smentito Carobbio, e questo fa capire che non è che la chiama di tutti gli erano tutti simpatici i giocatori a Conte. Questo il pensiero di Rino Gattuso su una vicenda che non finirà mai. Giovanni D'Avellino, mi cadono tutte le telefonate. Allora, che convocazioni sono queste? Dove le scriviamo queste convocazioni? Paolo da Pordenone? Sì, buongiorno. Oh, finalmente. Chiedo scusa, no, io ancora quel caso Conte. Sì. Ma da un altro punto di vista, come faccio ad impedire a un privato, in questo caso la Juventus, di fare tra le mura di casa sua quello che vuole da lunedì al venerdì, altro paio di mani che la partita? Grazie per la vita. No, come fanno? Infatti non lo fanno. Cioè no, perché sento appunto molta gente dire non dovrebbe allenare da lunedì a venerdì, eccetera, eccetera, ma le norme lo consentono, poi non sono così convinto che siano corrette, però tant'è, Conte fa quello che fanno tutti gli allenatori squalificati anche per una sola giornata, quindi questo è quanto. Allora a chi tocca? Antonio D'Ancona? Eccomi. Eccolo, dica. Ecco, buonasera intanto. Buonasera. Io intanto, mi sente? Sì, ci provo. Ecco, no, questi pseudo tifosi che non professano la loro fede, e continuano a parlare male di Conte. Ascolta, intanto ha risposto Gattuso per me, che volevo, era proprio questo, avvertiva il mio pensiero era questo. 36 deposizioni a favore di Conte. Mi dite voi come l'hanno condannato? Sì, Guardi, poi Conte si è contraddetto anche su alcune vicende, dicono, quindi insomma è stato ritenuto credibile Carobbio, poi è ovvio che c'è anche chi sostiene che le smentite siano arrivate per evitare, a favore proprio, cioè dei giocatori stessi, per evitare a loro volta di essere indagati e magari squalificati per omessa denuncia, perché sarebbero stati nella stessa identica posizione. Quindi insomma, è una vicenda che continua a mordersi la coda. Chiudiamo con dei numeri, anzi più che dei numeri, oggi un racconto che riguarda la Champions League, appuntamento fisso per il momento. I numeri della Champions. Beh, più che di un numero, vi volevo parlare di questa musichetta, l'inno della Champions League, pezzo la cui esecuzione è compresa nella cerimonia d'apertura di ogni partita, come sapete, venne composto da Tony Britten nel 1992 ed è basato sull'inno di incoronazione Zadok the Priest di Handel. Quindi vi lascio con questa nota dotta, quindi ogni volta che ascolterete l'inno della Champions, pensateci. I numeri della Champions, in collaborazione con Unicredit. E voi siete convocati domani alle 14. Franco Piantanile in redazione, Roberto Scaltretti in regia. Ciao a tutti.